5C. Ascolta e trasforma. Può ripetere? Possono ripetere? Può parlare lentamente? Possono parlare lentamente? Può aspettare? Possono aspettare? Può restare? Possono restare? Può chiudere la finestra? Possono chiudere la finestra?